Comunicazione multimediale, 2 dicembre 2011. Allora, intanto per cominciare, il nome di questo corso è illusorio e intermedio. Questo non è un corso, cioè chiunque si aspetti di imparare il marketing della cosiddetta comunicazione multimediale è non per colpa sua, ma è stato tratto in errore dal nome del corso. In realtà questo è un corso essenzialmente, diciamo, di filosofia del linguaggio, che si occuperà, come si è occupato negli ultimi anni, di due questioni essenziali, una più teorica e una più pratica. La teorica ovviamente è quella che sta dietro a qualsiasi cosa si possa chiamare comunicazione multimediale, e cioè è il rapporto tra la parola e l'immagine, ed è su questo che comincerò a dire qualcosa oggi. Direi il corso cosiddetto, chiamiamolo istituzionale, quindi con questo discorso sull'indagine, insomma, su una, diciamo, ricerca dei rapporti e delle somiglianze, delle differenze, delle opposizioni, degli scontri, di tutto ciò che riguarda i rapporti tra parola e immagine, lo faremo nelle lezioni del lunedì, che sono quelle di 3 ore. Nelle ore del venerdì invece faremo una specie di seminario, chiamiamolo, o parte monografica, come si deve chiamare, dedicato a un tipo particolare di comunicazione multimediale che è la comunicazione dei movimenti di opposizione sociale, non soltanto in Italia, diciamo in Europa e parzialmente anche nel resto del mondo, nella seconda metà soprattutto del Novecento. Quindi entrambi i temi ovviamente sono pertinenti alle premesse, insomma alle condizioni di possibilità, diciamo, per usare un termine kantiano, portiano, della cosiddetta comunicazione multimediale, però sono declinati ovviamente diversamente, cioè quindi c'è una parte che è più, chiamiamola, teorico-filosofica, per la quale ovviamente cercherò di darvi tutti gli strumenti necessari, anche se gran parte di alcuni di voi non li avranno, o forse la gran parte di voi, perché tutti quelli che hanno seguito sinora un'istruzione artistica sono stati, non per colpa loro, ma colpevolmente tagliati fuori da ogni dimensione di riflessione sul pensiero, nell'erroneo convincimento che l'arte possa fare a meno dei sistemi concettuali e del pensiero. Dico questo perché l'istruzione artistica in Italia, meno in altri paesi d'Europa, è caratterizzata da questo pregiudizio, cioè che non è tanto importante che l'insegnante pensi, che l'artista pensi, quanto che sappia fare delle cose manualmente, che con delle tecniche vecchie e con delle tecniche nuove non cambia nulla, mentre invece io sono convinto, come credo qualsiasi persona ragionevole debba essere convinta, che senza una riflessione sui sistemi concettuali che si usano e su ciò che sta dietro all'aspetto sia comunicativo che espressivo dell'arte non si fa un passo in avanti. Insomma, questa è la ragione per la quale gli studenti, anche nell'istruzione artistica, ci dovrebbe essere uno spazio, diciamo, agli insegnamenti genericamente filosofici, che non c'è, ma noi cerchiamo evidentemente di, come si dice, fare di necessità virtù, quindi insomma, siccome siamo convinti, o io sono convinto, che poi per quello che conta, visto che il titolare del corso sono io, che questa cosa ci voglia, quindi cercherò di darla, anche se, ripeto, so bene che era. Allora, intanto un po' di bibliografia. Allora, la prossima volta vi porterò un programma un po' più completo e più chiaro, però sin d'ora vi dico subito che bisognerà leggere un libro o due, bisogna leggere tante robe, però insomma, diciamo, almeno un libro che vi darò sulla parte, chiamiamola istituzionale, quindi sulla parte, insomma, sul tema parole, immagine. Le cose da leggere sarebbero tante, probabilmente vi darò anche dei testi, io dei brevi testi, delle brevi cose, ma insomma i libri fondamentali sono quelli di un pensatore, filosofo, di cui non so neanche come dirvi la nazionalità, diciamo di nascita ceco, cioè boemo, nato a Praga, che però ha scritto in almeno quattro lingue differenti, cioè il ceco, il tedesco, l'inglese e il portoghese, il brasiliano, che è stato a lungo in Brasile. Il suo nome è Wilhelm Flusser. È morto all'inizio degli anni 90, era uno che era parecchio vecchiotto, quando no, non era tanto vecchio, quando comunque è uno dei pensatori secondo me più originali su questo tema. Alcune delle cose che dice, poi quando vedrete il libro vedrete che sono simili a quelle che dice McLuhan, però con un taglio veramente diverso, e lui ha fatto una riflessione proprio sui rapporti tra parola e immagine più chiara di altri, molti altri l'hanno fatta nel corso, ma insomma a me piace tutto, quindi vi do la risposta. In Italia ci sono tre libri, cioè almeno uno ve lo dovete leggere, due sono comunque svolti di Domenica, due sono editi da Bruno Mondadori e uno da Feltrinelli. I due di Mondadori filosofia della fotografia. In realtà non parla solo della fotografia, ma parla anche più in generale delle immagini. Il secondo, quindi, è un libro vero proprio, che è stato tradotto da, credo, la lingua in cui era stato scritto, era il tedesco. Poi invece l'altro si chiama, non lo so più, una cosa che ha a che fare con Massimiliano, comunque, invece, però è un'antologia di scritti, quindi non è un libro che lui ha mai scritto, un'antologia di scritti fatta in Italia, però fatta abbastanza bene con versi di fuori. Il libro di Feltrinelli ha invece il titolo Immagini, quello è un libro che io non conosco, però è uscito c'ha il termine immagini nel titolo, comunque sono tutte robe che vi do la prossima volta meglio, perché sono allora, quindi seguirò principalmente questo, perché è la, allora poi vi darò vari altri libri in bibliografia se volete approfondire o se volete spulciare anche lei solo qualche pagina da più libri. C'è un libro che per me è molto deludente, di Régis Debray, su questo tema, cioè adesso poi parleremo un attimo questa mattina del tema dell'immagine. Comunque questo è il libro, o uno dei libri fondamentali, insomma sceglietevene uno di questi per la parte monografica. Poi ripeto, vi farò probabilmente delle dispense, quanti sarete, insomma chiunque ci sia, il numero non ha importanza, specialmente se c'è un sacco di stranieri, non so che corso è in italiano, ma vuole rifare in inglese, che insomma c'è un po'. Mentre invece sull'altro filone ci sono due libri, cioè nel senso per il seminario, quindi quello sulle forme di comunicazione, bla bla bla, eccetera. Poi c'è un libro sulla, questo è per quanto riguarda, diciamo, chiamiamolo la filosofia dell'immagine, diciamo, no? Poi il libro che vorrei usare invece in generale sulla net art come sfondo, chiamiamola net art senza punto, sull'arte delle reti, insomma, in realtà parte questo è un biennio, cioè adesso voi siete fuori in quota, ma insomma quelli che dovrebbero venire lì stanno dentro un biennio di net art, quindi devo fare un po' di net art. Allora il libro che vorrei usare per la net art è il libro di Tatiana Bartichelli, che si chiama Networking, mi sembra, comunque anche questo perché lo darò meglio la prossima volta, l'arte della rete, ed è un costo enorme, però no, questo libro potete anche scaricarvelo, potete stare gratis su, quindi non dovete cacciare dei soldi, forse riporto l'indirizzo. È un libro che no, nonostante il sottotitolo non parla di arte in senso tradizionale, ma parla delle pratiche di rete, ovviamente visto da un punto di vista, diciamo, espressivo. Tatiana Mazzucchelli è la fondatrice di una, che attualmente sta finendo, dovevamo avere discusso ieri o l'altro ieri, il suo dottorato in un'università danese, la Tenda di Marca. È una ragazza romana che si è laureata tanti anni fa con Alberto Abruzzese su una tesi di questo tipo e ha fatto il libro, questo libro è quello più generale che c'è sulla, certo ha come dire, un'ottica un po' italocentrica, perché, però parla anche di altri sulle, insomma, diciamo, riguarda le intersezioni tra arte e attivismo più in senso molto lato politico. Poi c'è un altro libro che mi farebbe piacere che leggeste o che consultaste, che si chiama Comunicazione due figlia. Questo è un libro che non è più in circolazione, è stato scritto da Deriva Prodi. Ma è un libro su cui ho fatto questo stesso corso, sto facendo adesso, vari anni fa l'ho fatto, l'ho conosciuto questo libro quando al triennio, però non al biennio, non era questo corso, in realtà era un corso del triennio, nei due anni in cui in questo corso erano presenti gli studenti del collettivo Contact, che adesso si è sciolto. E quindi ho fatto un lavoro anche con loro, insomma, direttamente con loro, partendo da questo libro. È un libro uscito, è un libro del Chiotto, che è uscito nel 1999, fatto da un gruppo di attivisti tedeschi che aveva vari nomi, non ci sono nomi di persone. Il primo è Africa Group, mi sembra, Africa, con K Group. Poi c'è Sonia Brinzer, che è un altro nome collettivo. Altro, poi hanno messo anche Luther Blissett di copertina, perché il libro venne pubblicato con una prefazione di Luther Blissett negli ultimissimi mesi in cui Luther Blissett in Italia esisteva come un gruppo autonomo, poi cambiarono nome e diventarono Luming. Quindi è un libro, essendo stato scritto nel 99 in Germania, pubblicato in Italia nel 2001, ovviamente gli mancano tutte le esperienze di comunicazione guerriglia posteriori a quella data e in particolare tutte quelle che poi sono state, hanno avuto una certa diffusione del movimento cosiddetto no global o mondialista dal 2001 all'anno scorso, oggi insomma. Con alcuni di Autart noi avevamo progettato gli anni scorsi di fare una nuova edizione di questo libro. Poi Autart si è sciolto, insomma, è un po' di casino, però c'è una ragazza che sta facendo una tesi con me a Brera su questo argomento, quindi può darsi che l'idea di rifarlo lì, però per il momento c'è questo libro, quindi non l'ho trovato assolutamente più se non so, fortunatamente andando a raspare nelle cantine del libraccio, no, però c'è anche questo, l'hanno messo in rete, era stato già messo in rete prima, comunque insomma è disponibile sul sito di Autart, che esiste ancora, adesso il gruppo non c'è più, quindi potete scaricarlo pure. Last but not least c'è un libro di Caronia che si chiama Universi quasi paralleli, che è un libro su una raccolta di scritti che ho fatto sulla fantascienza, e una parte del libro riguarda esattamente i falsi, no? Perché ben prima che io insegnassi in questa scuola ho avuto anche personalmente delle esperienze di falsi, sia individuali miei che collettivi, cioè, in questo libro si raccolgono le mie esperienze, insomma i testi che ho scritto. Questo qui non è scaricabile purtroppo da nessuna parte, perché il lettore non ha... Direi che come materiale ce n'è fin troppo già, insomma, nel senso, non è per leggere tutto per forza, sono però questi sono i libri che vi possono orientare, alcuni dei libri che vi possono orientare nella scelta. Va bene, adesso cominciamo invece a discutere, insomma, a cercare di focalizzare il problema, diciamo, dei rapporti tra la parola e l'immagine. Mi pare totalmente inutile dirvi che questo tema è un tema pressoché costante nella storia della specie umana, perlomeno cioè, da molto molto tempo, insomma. Adesso noi la prima cosa che dobbiamo evidentemente notare è che qualsiasi siano le concezioni che noi abbiamo su questo tema, ma è indubbio che il linguaggio faccia parte delle proprietà fondamentali degli esseri umani. Cioè, ci ho detto, insomma, Soldoni, non saremmo esseri umani se non parlassimo, quindi questo mi pare ovvio. Sulla presenza dell'immagine all'interno della definizione o di un discorso sugli esseri umani, la questione può essere più controversa, ma in gran parte dipende dalla ambiguità del termine immagine. Anche termine parola, volendo, o termine linguaggio, può essere, però insomma, è un po' meno equivoco del termine, diciamo, immagine. Segnaliamo da subito questa prima equivocità, perché che è stata storicamente fonte di grande confusione, quindi anche delle difficoltà nel trattare questo tema del rapporto tra la parola e l'immagine. Col termine immagine noi intendiamo oggi, e questo vale per quasi tutte le lingue d'Europa, perlomeno per quelle che io conosco, insomma, mi pare, poi non so se nelle lingue orientali, quello sarebbe interessante andare a vedere, ma per nelle lingue europee e probabilmente in tutte le lingue indo-europee, quindi compreso anche il persiano e l'indiano, eccetera, eccetera, col termine immagine noi intendiamo due cose molto diverse. Da un lato le immagini artificiali, cioè quelle prodotte dall'uomo con qualsiasi tecnica. Da quelle prodotte, che sono quelle sono la gran parte delle immagini, non solo della storia dell'arte, ma anche della storia della comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi le immagini prodotte con uno strumento di qualsiasi tipo, che può essere del pigmento colorato o dei tizzoni, dei pezzi di legno bruciacchiati, insomma qualsiasi cosa che sia in grado di lasciare una traccia bidimensionale su di una superficie vagamente piana, più o meno piana. Fino a poi tutto quello che è venuto dopo. Insomma, queste immagini hanno una storia che data almeno da 36.000 anni, 30 e 35.000 anni fa. E sapete che le prime, insomma, sono le cosiddette pitture rupestri o le pitture trovate in alcune grotte nel sud della Francia, nel nord della Spagna, di cui le più famose sono quelle di Altamira e di Lascaux, grotte che adesso sono chiuse al pubblico, ma che per un periodo si sono potute visitare. Quelle sono le più antiche tracce di cui noi disponiamo e che ci dimostrano quindi che l'essere umano, Homo sapiens, non fin dagli inizi della sua, perché noi non abbiamo, Homo sapiens ha almeno 200.000 anni, grosso modo, di storia sul nostro gruppone, siamo tutti Homo sapiens qua più o meno. Se non vogliamo contare poi le specie che ci hanno preceduto e che oggi sono quasi estinte, ma molte delle quali fanno già parte dal punto di vista biologico del genere Homo, quindi tutti i vari Homo che si sono succeduti nel corso, quindi Homo habilis, Homo erectus, hanno cambiato nome negli studi paleontologici negli ultimi 30 anni, ma insomma l'ultimo è Homo neanderthalensis, l'uomo di Neanderthal, che è stato contemporaneo per parecchie decine di migliaia di anni di Homo sapiens e poi si è estinto non molto tempo fa, all'incirca 60.000 anni fa. Quindi comunque prima delle cose delle grotte diciamo di Atene. Quindi sicuramente, però questo non ci autorizza a dire sicuramente che l'uomo ha parlato prima di produrre immagini, perché può darsi che ce ne siano anche di immagini precedenti che a noi non sono rimaste, quelle delle grotte di Lascaux e di Altamira si sono salvate per una serie di circostanze fortuite, ma forse anche eccezionali, un certo isolamento di queste grotte, poi sono state scoperte alla fine dell'Ottocento in modo fortunoso da due bambini che sono cascati dentro il buco, cioè e già poi si sono trovati, ma vabbè, che roba. Georges Bataille ha scritto una serie di saggi, un saggio lungo su queste pitture di Lascaux che potrebbe essere interessante leggere negli anni 50 del secolo scorso. Dico Bataille per dire uno che insomma poi ha scritto altre robe. Allora, diciamo, le pitture sulle pareti, che sono pitture perché sono, diciamo, c'è già combinata una tecnica che oggi chiameremo disegno, e quindi con questi carboncini, diciamo, rudimentali, probabilmente erano pezzi di legno bruciacchiato, insomma, con i quali sono state le righe, ma ci sono anche già dei colori, quindi vuol dire che già 36.000 anni fa o 36.000 anni fa gli esseri umani avevano capito che c'erano alcune sostanze naturali che opportunamente trattate potevano dare luogo a dei materiali liquidi o semiliquidi che potevano venire distesi su una superficie più o meno piana, dico più o meno piana perché è ovvio che c'è una bella differenza tra un foglio di carta o tra una superficie di formica e una parete di roccia. Però evidentemente per Jusserl, cioè trovare una parete di roccia così liscia, eccetera, eccetera, era liscia relativamente, ma insomma, vuol dire che era già, se non c'è una parete liscia non si può fare disegno qua, nulla, insomma, evidentemente, se non abbiamo un supporto più o meno bidimensionale, più o meno liscia. Quindi da lì già, insomma, comincia, lì c'è già in embrione qualcosa che possiamo chiamare pittura, anzi, secondo me pittura, insomma, sono anche figure fatte con una, per certi versi, da un lato uno strato del realismo, dall'altro già però con un trattamento di tipo che potremmo dire simbolico, eccetera. Quindi insomma, sono cose già mature, non sono. Non, questo fa parte dei pregiudizi dell'uomo occidentale, quello di, insomma, chiamare arte primitiva, di primitivo c'è soltanto un dato cronologico, insomma, ma sono. Implicano già dei processi culturali molto, molto avanzati, insomma, comunque comparabili ai nostri. No? Poi da qui diciamo, dipana tutta la storia dell'arte, insomma, quella a cui più o meno con cui penso che abbiate qualche familiarità. Queste sono, noi chiamiamo immagini questi prodotti artificiali degli esseri umani, queste sono le immagini. Anche recentemente, quando insomma, parleremo poi, diremo meglio, diciamo, c'è stata una svolta nei tempi, diciamo, recenti, nei rapporti tra parola e immagini, che è data più o meno dalla fine dell'Ottocento, precedenti, in anni precedenti ancora all'invenzione del cinema, diciamo, l'invenzione tecnica che ha reso possibile questo cambiamento, non so se si possa dire di paradigma, ma insomma questa svolta nella storia dei rapporti tra l'immagine e, diciamo, la parola non è stata tanto l'invenzione della fotografia in quanto tale, ma l'invenzione di procedimenti tecnici che consentivano di stampare le fotografie su carta normale. Praticamente, diciamo, si può dire in breve, l'invenzione del rotocalco. È stata l'invenzione del rotocalco che è data negli anni intorno al 1880, diciamo, è stata la possibilità tecnica di stampare con particolari accorgimenti le foto, le fotografie su carta normale, quindi non su carta fotografica, non su carta sensibile, eccetera. Questa è quella che ha generato la svolta che si è chiamata in vario modo con il nome di età dell'immagine, era dell'immagine, eccetera, eccetera. Quando diciamo era dell'immagine, alludiamo sempre a immagini di questo tipo, quindi immagini artificiali prodotte dagli esseri umani. Ma col nome di immagine noi, però, intendiamo anche un'altra cosa. E se ci pensate un attimo, vedete certamente che delle relazioni ci sono, ma sono molto problematiche. Noi chiamiamo immagine anche le vaghe produzioni della nostra mente, ciò che visualizziamo con una sorta di occhio interno, senza che vediamo fuori niente, e che quindi sono create sempre da noi in qualche modo, ma non con tecniche, non c'è un processo di esteriorizzazione di queste immagini. Queste immagini rimangono dentro di noi e sono le immagini che si creano, ripeto, nella nostra mente, qualsiasi sia la cosa che intendiamo con questo termine, anch'esso problematico e vago di mente, quando pensiamo, fantastichiamo, ricordiamo, addirittura quando dormiamo. Perché quando facciamo dei sogni, i sogni non sono altro che delle immagini in movimento. Adesso noi possiamo dire dei film, ma fino a che l'uomo non ha disposto, finché noi non disponevamo di un termine di paragone nelle immagini prodotte, diciamo, da noi come il cinema, evidentemente non potevamo pensare ai nostri sogni come cinema, ma i sogni sono una delle cose studiate da tutte le culture. Non c'è praticamente cultura di quelle conosciute nel mondo che non abbia avuto un proprio discorso, delle proprie pratiche anche sociali legate ai sogni. Allora, sogni, fantasticherie, ricordi, anticipazioni, eccetera, sono tutte cose basate su delle immagini interne e non esterne. Possiamo chiamarle con una qualche forzatura, sì, sono prodotte da noi, ma essendo prodotte da noi non con l'ausilio di tecnologie o di tecniche, possiamo chiamarle immagini naturali, se vogliamo, o immagini interne, mentre le altre sono immagini naturali, immagini artificiali o immagini esterne. Bene, è evidente che questo crea una, cioè, che c'è una relazione tra questi due tipi di immagini, ma è anche altrettanto evidente che non sono la stessa cosa, che i problemi che pongono sono di carattere molto diverso. Allora, questo è il primo problema di cui dobbiamo tenere conto quando, come dire, quando insomma, facciamo un discorso sull'immagine. Allora, più comunque sia che consideriamo le immagini interne o diciamo naturali, sia che consideriamo le immagini esterne o artificiali, comunque sia, il primo problema che si pone nell'indagine, nello studio che è stato, che, insomma, su cui c'è una ormai lunga, diciamo, tradizione, è il seguente. Le due possibili domande sono, primo, la produzione di immagini, di qualunque tipo, di immagini mentali o di immagini artificiali, è una caratteristica degli esseri umani, cioè caratterizza gli esseri umani in rapporto ad altre specie animali? Primo. Secondo, dato che comunque il linguaggio è l'altra particolare capacità, è l'altra particolare attività, diciamo, di tipo rappresentativo, adesso parleremo poi un po' meglio, cercheremo di definire un po' meglio questo concetto relativo, che l'uomo compie, che relazione c'è, che rapporto c'è tra la produzione di immagini e quella di parole? Ripeto, da un punto di vista rappresentativo o, per usare un termine che non è, ma diciamo di tipo simbolico. Sul piano della rappresentatività o della simbolicità, parole e immagini si possono trattare nello stesso modo, pongono gli stessi problemi, si possono descrivere con gli stessi sistemi concettuali, ricadono sotto le stesse categorie, si può parlare di un processo generale di creazione, mettere sempre questi termini tra mille virgolette, umana che riguardi tanto le parole quanto le immagini nello stesso modo, oppure i processi sono totalmente differenti e noi li combiniamo in qualche maniera solo a posteriori nella nostra, cioè che sono come dire combinati, è ovvio, sino cioè, più o meno tutte le culture che noi, cioè non conosciamo culture, intanto che non parlino, come ovvio, insomma, perché ovviamente cioè, ma diciamo che non producano dei complessi, diciamo, verbali, dei complessi, anche ben prima della scrittura, quando, spero di non dover insistere su questo punto, quando parliamo di linguaggio, noi non parliamo ovviamente della scrittura, che è un fenomeno recentissimo nella storia degli esseri umani, non ha più di 5.000 anni, l'uomo parla da 200.000 anni e scrive da 5.000, quindi non ha, cioè, la scrittura è un altro problema complicatissimo, perché evidentemente ci possono essere vari modi di intendere la scrittura, c'è il modo di McLuhan, che la, e di altri, in parte anche di Flusser, vedete, che considera la scrittura come, cioè, che sottolinea diciamo questo aspetto, cioè il fatto che la scrittura non è altro che la traduzione grafica del flusso sonoro, delle, diciamo, parole, ma è chiaro che il fenomeno primario del linguaggio è un fenomeno sonoro, non è, diciamo, un fenomeno grafico. Però già dal solo fatto che siamo costretti, o comunque che usiamo il termine grafico per indicare la coscrittura, in qualche maniera vedete che c'è un legame tra la scrittura e l'immagine. E addirittura ci sono molti sistemi di scrittura, non il nostro, ma in genere quelli sviluppati, e sono i primi che si sono sviluppati in Egitto, in Mesopotamia e in Cina, più o meno nello stesso periodo, quindi che bizzarra coincidenza che all'incirca 3.000 anni prima di Cristo, in tre posti così diversi, vabbè, diciamo Egitto, Mesopotamia, e a noi ci sembrano vicini, ma all'epoca erano, ma poi in Cina, cioè, in cui non c'era paese, eppure in tutti e tre questi posti si crea questa. E il tipo di scritture questi tre tipi di scritture sono tutte scritture che hanno una diretta relazione con l'immagine, sono probabilmente delle immaginette, piccole immagini, in cui ogni segno grafico, ogni immaginetta rappresenta una parola e non un suono. La invenzione di alfabeti fonetici, di sistemi di scrittura fonetici è un po' più tarda, però compare già in Mesopotamia, 1800 anni prima di Cristo, grosso modo, e rappresenta concettualmente non dico un passo avanti, ma un cambiamento, diciamo, totale rispetto alle scritture cosiddette ideografiche o pittografiche, no? Certo, anche nelle scritture fonetiche, di cui poi quella che noi pratichiamo, che conosciamo, che si è diffusa, eccetera, è l'alfabeto. Ci sono sistemi di scrittura sillabici, sistemi di scrittura in cui ci sono dei segni grafici, non per dei singoli suoni, ma per dei complessi di suoni già combinati, che sono le sillabe. Evidentemente un sistema di scrittura sillabica ha bisogno di un numero un po' maggiore di simboli, di segni grafici, ma il numero infinitamente minore rispetto ai sistemi pittografici o ideografici, ha bisogno di migliaia, perché se ogni parola deve essere rappresentata da un segno, le parole sono migliaia, migliaia, migliaia. Sapete che i bambini cinesi mettono decenni per imparare, perché hanno 40.000, 50.000 segni complessivamente, poi certo uno per scrivere gliene va, ma gliene bastano pochi, vuol dire che con meno di 7-8 mila segni non riesce a scrivere bene, quindi già fatto di 7-8 mila segni, insomma, è una roba sensazionale, insomma, però loro ci riescono piano piano. Allora, quindi c'è un certo rapporto. Allora, per esempio, alcuni filosofi, per esempio Derrida, che è il più famoso esponente di questa diciamo, tendenza, hanno tentato di rovesciare diciamo l'ipotesi di McLuhan, diciamo, che la scrittura sia un fenomeno secondario rispetto alla parola, e hanno teorizzato, addirittura, insomma, diciamo, Derrida teorizza questo, e hanno teorizzato come dire, addirittura la preminenza, cioè la precedenza della scrittura rispetto alla parola. scrittura ovviamente non va intesa in questo caso come un'attività, cioè, già strutturata, come dice di sé, di segni, soprattutto non legata alla lingua, diciamo, parlata, ma ad un sistema comunque di tracciamento di segni sulla superficie. Diciamo, lasciare delle tracce di tipo grafico, secondo Derrida, sarebbe un'attività umana, ripeto, addirittura secondo lui, mi sembra un po' bizzarra questa cosa, insomma, precedente allo stesso linguaggio, insomma. Va anche se ovviamente ci sono degli elementi, si può anche sostenere una tesi di questo tipo pensando a quello che fanno alcune specie animali, insomma, adesso detta in maniera un po', la butto un po' lì così, ma insomma adesso non voglio neanche perdere troppo tempo su questo, ma insomma grosso modo da questo punto di vista noi potremmo addirittura concepire la scrittura come l'erede di comportamenti animali o perlomeno dei mammiferi, diciamo, diffusi tra i mammiferi, come quelli di scavare una tana o di effettuare comunque dei segni, di marcare il terreno con dei segni. Adesso, addirittura probabilmente con l'attività tipica di molti mammiferi, dei mammiferi territoriali, di marcare il proprio territorio facendo pipì in zone particolari, anche quello è un modo di lasciare un segno sul, diciamo, terreno, l'urina dell'animale casca dentro il, come dire, terreno e non incide, ma cambia la composizione chimica e l'aspetto di quel particolare e quindi poi dà, in questo caso è una roba collegata con il sistema degli odori, dell'olfatto, eccetera, di questi animali, ma in qualche maniera si potrebbe dire che queste attività, diciamo, quindi che la talpa che si scava una tana o il cane che seppellisce il proprio osso nel, diciamo, giardino o il gatto che fa pipì, sono dei sistemi di proto-scrittura in qualche maniera, sono gli antenati. Allora, questo però è una cosa che lasceremo perdere, la dico così solo perché non ho alcuna intenzione né di discutere le tesi di Derrida, che sono complicate, poi sono molto più complesse di come ve le ho presentate io adesso. Ma insomma, allora, quindi scrittura, cioè comunque c'è un certo rapporto fra, come dire, scrittura e immagine, però è evidente che nei sistemi di scrittura che noi conosciamo, qualsiasi sia la concezione filosofica generale che abbiamo o il discorso che fare, ma se rimaniamo limitati a questo, al fenomeno della scrittura, è evidente che nella scrittura è il suono che comanda sull'immagine. L'immagine non è nient'altro che uno strumento per fissare su di un supporto stabile un fenomeno che è fondamentalmente instabile, effimero, che è come quello della parola. Adesso, quello che state facendo voi adesso è un lavoro di questo tipo, state traducendo le cose che dico io, alcune delle cose che dico io, quelle che voi avete già filtrato e considerate più importanti di altre, le state traducendo con uno strumento grafico chiamato Biro su un supporto bidimensionale chiamato foglio di carta. Quindi, ma è chiaro che se io non parlassi voi non avete un cazzo da scrivere. Allora, nella scrittura è evidente che è la parola che comanda, diciamo, chiamiamola l'immagine in generale, in fondo anche, sia pure in modo molto astratto, anche le lettere dell'alfabeto possono entrare delle immagini, no? Dei segni che voi tracciate. Ma naturalmente, l'esame delle pitture parietali, delle grotte, di Lascaux e tutto quello che è, diciamo, seguito dimostra che c'è anche un'altra attività di produzione dell'immagine dell'uomo che non è, probabilmente non è totalmente, diciamo, slegata, ma con, diciamo, sono immagini che non sono così subordinate alla di parola, hanno una loro autonomia. E quindi tornando ai due problemi che sollevavo prima, che tentavo di formulare prima. grosso modo entrambi questi sistemi, cioè tanto la parola quanto l'immagine, sono due sistemi, sono due modalità, due modi o di rappresentare il mondo, attenzione, qui però io sto già facendo delle ipotesi, cioè uno potrebbe chiedere, ma chi te l'ha detto che come immagine, come parole si rappresenta il mondo? Diciamo più in generale, però il termine rappresentare c'entrerà sempre, se non si rappresenta il mondo con le parole o con le immagini, si rappresenta comunque qua almeno qualche processo mentale, o addirittura si rappresenta o si cerca di mettere in relazione quelle immagini o quelle parole con certi comportamenti. Pensate alla ritualità, ai riti, ai culti, anche a prescindere da un eventuale, ci sono riti e culti che noi siamo abituati a considerare collegati con un punto di vista religioso, e possono essere anche riti e culti che non sono direttamente in quella maniera, diciamo, religiosi, o perlomeno non nel senso che noi diamo al diciamo, termine, ma in tutti i casi, insomma, c'è un termine chiave, o meglio, diciamo, due termini chiavi che sono collegati, collegabili, insomma, che sono uno è rappresentazione e l'altro è simbolo. Adesso qua vorrei lasciare da parte per un momento il secondo termine, perché anche storicamente è un termine molto complicato, molto più l'attività simbolica di simbolizzazione, poi ci arriveremo, insomma, ma userei per un po' il termine, cercherei di capire un po' cosa ci sta dietro al termine rappresentazione, perché è un po' più neutro, no? Mi sembra un po' più neutro, ci si può lavorare probabilmente meglio come. Allora, è indubbio che tanto la parola quanto l'immagine, nel senso dell'immagine artificiale, poi sulla difficoltà di collegarla con le immagini naturali torneremo, tanto il linguaggio quanto le immagini artificiali rappresentano in qualche maniera, sono delle pratiche di rappresentazione. Con il linguaggio e con l'immagine io rappresento qualcosa, che cosa vuol dire rappresentare? Vuol dire costruisco un equivalente sonoro o visivo, cioè qualcosa che sia in grado di colpire il nostro apparato sensoriale. Nel caso del linguaggio sono le orecchie che vengono, diciamo, colpite, nel caso dell'immagine sono gli occhi. Quindi l'udito e la vista. Quindi sono delle pratiche che consentono di costruire degli equivalenti visivi o sonori o visivi di qualche situazione reale vissuta dagli esseri umani, vissuta o vivibile, già vissuta in passato o che sarà vissuta in futuro, o che potrebbe essere vissuta, o che viene immaginata addirittura, è molto vasto il range delle possibilità, non è detto che questa rappresentazione riguardi qualcosa che davvero c'è stato, comunque io sia con le parole che con le immagini mi posso immaginare, già vedete che il termine posso immaginare, ma posso immaginare anche parlando, pensando dentro di me, oppure poi parlando, eccetera, posso costruire delle cose che sono rappresentative di che? Di nulla. L'Iliade e l'Odissea che cosa rappresentano? C'è la guerra di Troia, eccetera, eccetera, ma quando parlano di Zeus, di Era, di Atena, di Dio, chi sono? Chi li ha mai visto? Sono cose che esistono, gli dei dell'Olimpo, no? Quindi quando nel testo più antico che ci è giunto in un alfabeto semifonetico che è l'epopea di Gilgamesh, 1800 anni o anche più, no? 2005, credo, prima di Cristo, una serie di tavolette cuneiformi, scritte con la scrittura cuneiforme arrivano dai Babiloni, che sono la prima prova che il linguaggio è servito a qualcos'altro che non ha semplicemente fare la contabilità, semplicemente storicamente, no? Insomma, per fare la contabilità delle merci che entravano e che uscivano dai magazzini dei trattori, dei re, insomma, babilonesi prima e assiri poi, insomma. Nell'epopea di Gilgamesh si raccontano una serie di storie relative a dei personaggi la cui esistenza storica ci sfugge. Possiamo realisticamente e sensatamente pensare che non siano mai neanche esistiti, quindi che cosa rappresenta l'epopea, che cosa rappresentano i cosiddetti, cosa rappresenta l'epopea di Gilgamesh, quindi il termine di rappresentazione va inteso perché noi dobbiamo rappresentare qualcosa che c'è si può rappresentare una situazione, un'esperienza vissuta, ma si può rappresentare anche semplicemente uno stato mentale, cioè una storia pensata, inventata da una o più menti umane, da una o più... Però in qualche maniera ci sarà sempre, diciamo, la situazione della rappresentazione, come anche del simbolo dopo, ma diciamo, mettiamolo per il momento tra parentesi, una rappresentazione metterà sempre in relazione due oggetti, il termine oggetto già è un po' più, due poli, due cose che non sappiamo ancora bene che cosa siano. Una cosa che viene rappresentata diciamo, c'è un rappresentato e c'è un rappresentante. Il rappresentante sono sequenze di suoni o insiemi di tratti tracciati su una superficie approssimativamente piana. Sono le immagini artificiali. Il rappresentato può essere o una situazione, un'esperienza concretamente vissuta da un essere umano o da un gruppo di esseri umani, o anche qualche cosa di inventato da lui, cioè qualche cosa, una situazione fittizia presente soltanto nella mente, nella memoria o nella anticipazione dell'essere umano, ma sarà sempre qualcosa di diverso dalla sequenza di suoni con cui io la rappresento o dai tratti con cui la rappresento, perché sennò naturalmente spero che voi siate ben consapevoli che diciamo, nel linguaggio questa coppia rappresentante rappresentato ha preso un nome diverso da quando è stata introdotta, ma insomma noi quando parliamo del linguaggio ovviamente il rappresentato è ciò che chiamiamo significato, il rappresentante è ciò che chiamiamo significante. E quindi siamo ricondotti, o sembra che siamo ricondotti, perché adesso vi comincerò a mostrare il primo inghippo. Capiremo quanto sia difficile fare una teoria unitaria che comprenda tanto la parola quanto il linguaggio. Ma insomma, se le cose fossero così semplici, questi sono i due termini che usò all'inizio del Novecento il linguista ginevrino Ferdinand de Saussure per formulare le sue teorie linguistiche che hanno rivoluzionato tutta la linguistica e anche che hanno creato un'intera disciplina sorta dal nulla chiamata semiotica, e cioè è stata una semiotica, insomma, diciamo una scienza generale dei segni. Se c'è un rappresentato e un rappresentante, se c'è un significato e un significante, questo vuol dire che potremmo sperare in qualche modo di poter riassumere parola e linguaggio sotto una teoria generale dei segni, quindi sotto una semiotica. È chiara l'argomentazione fin qua? Allora, se ogni sistema rappresentativo fa uso di questa dicotomia, lega un rappresentante a un rappresentato, in qualche modo vuol dire che ogni sistema rappresentativo sembrerebbe essere un sistema di segni, quindi sembrerebbe possibile fare una semiotica o una semiologia, se vogliamo usare il termine francese, ma insomma, sembrerebbe come dire, possibile, come c'è una semiotica del linguaggio, così ci sarà anche una semiotica dell'immagine. E infatti questo è quello che hanno provato a fare ovviamente i semiotici, facendo di professione i semiotici, cioè studiando sistemi di segni, tutti contenti hanno detto, bene, abbiamo il sistema di segni della parola e il sistema di segni delle immagini. Quindi sarà possibile fare una semiotica dell'immagine, esattamente come si fa la semiotica della parola. La mia impressione è che, però, i semiotici quando fanno questo tralasciano un particolare importante, e cioè che tralasciano la differenza, non dico tanto materiale quanto concettuale, tra i sistemi linguistici e i sistemi non linguistici di presentazione, anche ammesso che possiamo indicare tutto col termine molto vago e molto generico di segno, il segno linguistico e il segno iconico, grafico, pittorico, ha delle caratteristiche che sono totalmente diverse. Che ci sia una aspirazione a vedere questi sistemi di segni sotto un unico punto di vista, lo possiamo ricavare anche dall'uso, che è un uso relativamente recente, che è invalso nelle varie lingue, di usare il termine linguaggio come metafora. Noi sentiamo parlare del linguaggio dei segni, il linguaggio della pittura, il linguaggio del corpo, la danza, cioè c'è un linguaggio del corpo. Ora, senza volere impedire, come dire, il proliferare di metafore, quindi riconoscendo che l'uso di questa metafora può avere un qualche fondamento, perché in qualche maniera semplicemente si sottolinea il fatto che tutti questi sistemi, dai sistemi di immagini, sistemi, anche insieme, insomma, adesso sistema da un senso, sia l'insieme delle immagini, sia l'insieme delle attività corporee, del movimento del corpo, può in qualche maniera ha una funzione rappresentativa, o ha fra le altre cose una funzione rappresentativa, esattamente come ce l'ha la parola, ma ma trascura il fatto che il linguaggio è un sistema rappresentativo che funziona su basi diverse, da quelle dell'immagine o da quelle del corpo. E qui sarà utile introdurre una prima distinzione, una prima dicotomia tra una dicotomia di origine matematica, ma che si capisce facilmente che può essere estesa a una gran parte di attività degli esseri umani. Non è difficile capirla, basta che ci riflettiamo un attimo. Si ha un insieme continuo o un oggetto continuo quando questo oggetto presenta un insieme di proprietà e di caratteristiche che lo fanno considerare, diciamo, in quanto tale, cioè che sono caratteristiche che lo descrivono come un tutto. E quando all'interno di questo oggetto non si possono, come dire, trovare facilmente delle componenti, detto in altri termini, quando l'oggetto non può essere scomposto in parti, se non con un intervento, come dire, direi quasi violento, diciamo, dell'uomo. Facciamo un esempio semplicissimo. Purtroppo questo diavolo di sedia non so. Questo è più bello. Qui abbiamo un bel pezzo di plastica, vedete, no? Modellato, fuso, in modo da fare una seduta. Poi abbiamo attaccato le gambe e così fa la sedia. Ma noi prendiamo in esame soltanto questo per il momento, soltanto la seduta della sedia. Poi prendiamo in esame una qualunque delle macchinette che avete qua di fronte, un computer, eccetera, eccetera. La mia domanda è, lo potete smontare un computer? Potete aprirlo, guardare, c'ha dei pezzi, è fatto di pezzi, Non dovete spaccarlo, sì, ci sono dei pezzi più grossi, dei più piccoli, non potete stare la schiena madre, il ventilatore, la roccia. Allora, un computer, come gran parte degli oggetti che ci circondano, in realtà sono fatti di parti, sono fatti di componenti. La colata di plastica che costituisce questa sedia, no. Certo, voi potete spezzarla, potete romperla, ma siete voi che non c'è nessuna suddivisione naturale. Allora, questo è un oggetto continuo, non ha parti, non ha componenti, non ha distinzioni interne se non quelle che voi potete procurargli con un martello, una sega, un martello pneumatico, una granata, un quello che volete. Il computer invece è fatto di parti, è costruito con delle parti. Questa è la differenza tra il continuo e il discreto. Adesso, se ci siamo capiti fin qua, se uno chiedesse, il linguaggio secondo voi è un sistema continuo o un sistema discreto? Che cosa rispondereste? Le nostre parole, è discreto, noi siamo abituati a parlare, quindi facciamo fiumi di parole, ma c'è una, sappiamo bene che tutte le nostre parole, le nostre frasi, le nostre gli sproloqui di caronia, che parla per delle ore, sono tutti formati di piccoli mattoncini messi insieme, ci hanno insegnato a farlo. La scrittura ci aiuta ancora di più in questa cosa perché ci dà un equivalente grafico, Anche la tua scrittura, la tua eccetera, sono belle ordinate, ok? Insomma, se scrivete un po' più fretta, uno può scrivere pure delle robe, sembrano delle linee continue, ma in realtà queste linee continue presuppongono una discretezza, non una discrezione, è una discretezza, un carattere discreto originario. E come per la scrittura, così è per il suono. Così è per il suono. Così. K, O, S, I. Sono le vocali e le consonanti di ogni linguaggio, sono facilmente isolabili. Infatti ai bambini I bambini non imparano a parlare in modo, diciamo, discreto, certo, imparano a parlare in maniera continua, però dopo un po' anche loro si rendono conto, anche il bambino, anche noi quando eravamo piccoli ci siamo resi conto a un certo punto più o meno che ci sono questi piccoli mattoni. Quindi, allora, il linguaggio è un sistema discreto. Ora, anzi, diciamo che tra le invenzioni umane, come dire, il linguaggio è una specie di paradigma dei sistemi discreti, è il sistema discreto più importante che abbiamo a disposizione. Non soltanto è un sistema, diciamo, discreto, ma il linguaggio ha una caratteristica in più che, se vogliamo, distinguerlo da altri sistemi che potremmo chiamare vagamente rappresentativi, adesso non lo so, adesso, poi parleremo delle funzioni del linguaggio e quindi capiremo meglio quanto possa essere ambigua questa cosa, ma supponiamo per un momento, ripeto, supponiamo e non diamolo per scontato, perché anzi poi vi, diciamo, mi dedicherò a demolire questa tesi, ma supponiamo per un momento che il linguaggio sia un sistema che ha uno scopo prevalentemente comunicativo. Possiamo dire che noi sappiamo che il linguaggio è una caratteristica tipica degli esseri umani. Nessun altro animale possiede il linguaggio, ma altri animali possiedono evidentemente sistemi di comunicazione. I sistemi di comunicazione degli altri animali, per esempio dei mammiferi che emettono suoni, primati, i carnivori, i felidi, tutte le famiglie di roditori, tutti emettono suoni. Il sistema di suoni emessi dagli animali è un sistema discreto o continuo? Continuo, no, sempre discreto. Anche i gorilla, anche gli animali possono emettere dei suoni diversi. Qui c'è un problema biologico di fondo che dobbiamo vedere, certo. Da un certo punto di vista la sede, il luogo in cui si formano i suoni in quasi tutti i mammiferi, che è la cavità orale, ovviamente non è discreta, cioè ci sono degli organi che sono diversi, la bocca è un sistema. Però, quindi uno dice, bene, ma il modo di atteggiare, di conformare la cavità vocale, di mettere la lingua, eccetera, eccetera, in fondo è un sistema continuo. Perché noi... Però all'interno di questa continuità del sistema di atteggiamenti fisici, di posizioni fisiche degli organi fonatori, si chiamano degli organi per la fonazione, i suoni, ci sono soltanto alcune posizioni particolari in grado di, che fanno sì che si emettano dei, diciamo, suoni. Quindi i suoni che vengono emessi sono sempre continui, sono sempre discreti. Cioè ogni specie dispone di un numero limitato di suoni, in genere addirittura minore di quello degli esseri umani, perché fra le caratteristiche fisiologiche dell'essere umano, una delle caratteristiche biologiche nostre che ci differenzia anche dai nostri cugini più prossimi, che sono i primati, c'è una molto maggiore versatilità dell'organo di produzione del suono umano rispetto a quello degli altri. Cioè noi siamo in grado di produrre più suoni, più differenziati, ma in numero molto maggiore delle altre. Perché? Perché abbiamo alcune caratteristiche anatomiche che ci rendono questo più semplice, la principale delle quali è l'abbassamento della laringe rispetto alla faringe. Abbassamento che è indispensabile per avere non solo un maggiore spazio, ma anche una maggiore versatilità, e poi ovviamente la presenza delle corde vocali, che è molto più sviluppata negli esseri umani che è totalmente assente in animali come i ruminanti, come insomma quasi tutti gli specie degli altri mammiferi, e molto più accentuata che negli altri primati, che invece ce l'hanno ma in modo molto più rudimentale di noi. l'insieme di queste due cose, più una serie di altre, più un'estrema mobilità della lingua, eccetera, eccetera, fanno sì che l'uomo sia in grado di produrre un numero di suoni maggiore di quello. Però i suoni che è in grado di produrre l'essere umano sono sempre un numero limitato, probabilmente più dei 25, 30, 40 al massimo che si possono contare nelle lingue storiche, storicamente, diciamo, determinate. Perché ci sono molti suoni che alcune lingue utilizzano e altre no. Pensate al TH inglese, al spagnolo e italiano, tutti suoni che in altre lingue non ci sono, insomma, nelle lingue orientali ce ne sono ancora di più, insomma. Pensate alle vocali aperte e chiuse che ci sono in certe, insomma, cioè l'inglese ha praticamente 11 vocali, molte più, eppure è una lingua europea come noi, eccetera. Noi ne abbiamo, quanti ne abbiamo noi? Quante vocali ha l'italiano? No, vabbè, quelle fonetiche. I suoni, quanti sono? Come suoni, non lo so. Come non lo sai? Quante sono le vocali italiane che possono essere aperte o chiuse? Allora, la E? No. No. Le altre? No. A, I, U, non lo so. Quindi quante sono le vocali italiane? Sette. A, E, E, I, O, O, U. Sono sette suoni diversi, no? Sì. Poi graficamente due di questi suoni. Le E noi le facciamo con la stessa lettera, i greci avevano due lettere diverse per indicare la E lunga e la E breve per loro, che è vagamente simile alla Epsilon e la Eta. Avevano due, infatti loro hanno sette simboli grafici anche diversi per indicare i vocali. Poi nel latino, siccome il latino era la greca, sono state unificate la Epsilon e la Eta, sono diventate E, la Omicron e la Omega sono diventate O, e quindi noi siamo abituati, però le distinguiamo, infatti la E e la O in italiano sono le uniche due che possono avere sia l'accento grave che l'accento acuto, tutte le altre hanno soltanto l'accento, non mi ricordo mai, l'accento grave. No, l'accento acuto. Quindi sono sette. Però per esempio gli inglesi ne hanno 11 perché hanno dei suoni, anche il francese ce n'è di più, perché in tedesco i suoni E o U non ci sono in italiano, no? Quindi sono. Allora c'è un numero maggiore di suoni. Però diciamo, allora che cosa differenzia? Eravamo partiti da questa cosa, diciamo, anche altri animali, per esempio parliamo degli animali che sono più vicini a noi, quindi gorilla, scimpanzé, oranghi, insomma, i cosiddetti primati antropomorfi, con una brutta parola perché sembra che l'uomo sia il modello delle cose, quindi quelle sono quelle che sono simili a noi, no? Sono quelli, siamo più simili, siamo tutti, noi siamo primati, facciamo parte di una famiglia unica, infatti si chiamano omini, in realtà si chiamano omidi. Si chiama omidi questa famiglia, anche lì c'è sempre c'è una famiglia di primati all'interno dei primati che comprende quattro generi e sette specie. I generi sono pan, che è lo scimpanzé, gorilla, che è il gorilla, e il nome scientifico dell'orango, che non mi ricordo qual è, e homo. Di queste quattro specie, di questi quattro generi, i primi tre generi hanno due specie ciascuno, sono pochine, è una genere, i generi nelle mani della biologia, ogni genere ha poi un casino di specie, pensate al leone, a Leo, c'è il Leo, il genere Leo, poi ha il leone, il quadro tale, la pantera, eccetera, sono tutti dello stesso genere, sono specie diverse. Invece del gorilla, dello scimpanzé e dell'orango ci sono due specie, due sole, e addirittura di homo ce ne sono una sopravvissuta, poi in realtà è estinta, un casino, sono stati un sacco di homo erectus, homo habilis, homo eccetera eccetera, e poi è rimasto homo sapiens solo, perché ci siamo autodenominati sapiens con un bel po' di prosopopea, insomma, perché E poi c'è un libro che dirò, ci sono tanti ipotesi su questa stranezza degli esseri umani, sono, non c'è più dell'1% di specie esistenti sulla Terra che siano l'unica specie appartenente ad un genere, è un'eccezione totale. Diciamo, i primati, quelli più grossi, cioè quelli del genere, quelli della famiglia omide, o ominidi sarebbe un problema simile all'uomo, e in particolare Homo sapiens, comunque. Allora, diciamo, tutti i primati hanno un sistema di comunicazione di tipo discreto, cioè emettono dei suoni. Ma qual è la differenza tra, perché non parlano le scimmie, qual è la vera differenza tra il linguaggio di noi umani e il linguaggio di uno scimpanzé? Perché lo scimpanzé non può recitare il monologo di Amleto, né dimostrare il teorema di Pitagora, al di là del, magari cognitivamente ci può anche arrivare, mi ha detto, che non è che siamo tanti, però tecnicamente non ha il modo di, perché? Perché c'ha meno suoni, sì, in parte è insomma, per quello, ma qual è la vera novità che caratterizza il linguaggio umano, che lo rende totalmente differente dagli altri sistemi di comunicazione? Basta che ti pensate un attimo, sai tutto quello che ho detto adesso, che più una roba. La no, no, molto più tecnico, molto più tecnico. Come faccio io a costruire le parole? Come sono fatte le parole? Le parole sono serie di suoni, giusto? Allora, le parole che io dico più o meno, anche perché dicevo che hanno un significato, no? I suoni ce l'hanno? Sì. Sì? Nel senso, perché le vocali? No, per noi. Ah. Che cosa significano le vocali per noi? Qual è il significato di A? Qual è il significato di O? Qual è il significato di E? Qual è il significato di M? Nessuno dei suoni per noi. È vero, per gli altri animali i suoni hanno un significato. Se il gorilla fa un urlo, che probabilmente consiste di un suono unico, questo suono vorrà dire, non sono uno specialista di linguaggio di comunicazione di gorilla, ma insomma, diciamo, i gorilla hanno un numero limitato di suoni, 20-30, che possono fare, quindi hanno 20 o 30 significati a disposizione, non di più, perché la cosa più semplice e più come naturale è quella di prendere un suono e dargli un certo significato, cioè correlarlo a una particolare situazione, c'è un nemico, non mi rompere i coglioni, questa donna è mia, non ti avvicinare che ti faccio un paiolo alla panna, eccetera, eccetera. L'uomo che ha scelto niente, insomma, l'evoluzione dove lo ha portato, noi che cosa facciamo quando usiamo il linguaggio? Noi abbiamo rinunciato a dare ai singoli suoni un significato e diamo un significato soltanto a certe serie di suoni, a certe combinazioni. Questa è questa la roba geniale che ci consente di scrivere la Divina Commedia, l'Amleto, la critica della ragion pura e consente a Carogna di fare le sue lezioni. Questo fenomeno si chiama doppia articolazione. Il linguaggio umano non solo è un sistema discreto, ma è un sistema doppiamente articolato. Cosa vuol dire doppia articolazione? Vuol dire che a livello più basso, a livello elementare, a livello delle componenti elementari del linguaggio non c'è alcun accoppiamento significante e significato. Il significato non si genera a quel livello lì, si rinuncia. Il termine rinunciare implica, diciamo, è come se l'uomo avesse rinunciato alla scelta più semplice, quella che fanno invece lo scimpanzé e il gorilla, eccetera, a ogni suono vuol dire qualche cosa. No, ogni suono non vuol dire nulla, soltanto le sequenze di suoni, certe sequenze di suoni vogliono dire qualche cosa. Non tutte, certo. Bricchio non vuol dire una cazzo, Eppure sono suoni tutti più o meno dell'italiano, Var visto non vuol dire nulla. Posso inventarmi una quantità di suoni, però tra tutti i suoni, tra tutte le sequenze possibili, la lingua italiana ne ha selezionato alcune, un piccolo numero, molto grande, ma piccolo rispetto a quelle possibili, che invece hanno, che invece significano qualche cosa. Voi capite che questa scelta, così semplice, no? Però ha delle conseguenze incalcolabili. Perché se io rinuncio a dare un significato ai singoli suoni e lo do soltanto ad alcune sequenze di suoni, ho una possibilità infinita, teoricamente infinita, di esprimere significati. Mentre il povero gorilla e il povero scimpanzé, non che abbiano una vita meno ricca della nostra, ma dal punto di vista fonetico, i loro fonemi esprimono ben pochi significati, loro ne esprimono 20, 30, quelli che hanno, noi ne esprimiamo infiniti. Poi certo anche il gorilla fa, però insomma questa è la vera ragione per la quale questo, segniamocelo allora, perché, allora, e questa è una delle, diciamo, ragioni per le quali, ne parleremo meglio nelle prossime lezioni, ma è difficile pensare che il linguaggio possa aver avuto, abbia fondamentalmente, essenzialmente che sia nato per funzioni comunicative. Che abbia, è ovvio che il linguaggio serve anche per comunicare, ma se servisse soltanto per comunicare, cioè, anche gli animali comunicano, non è che le scimmie non comunicano, non è che lo scimpanzé non comunica, e comunicano anche in modo raffinato, non è che perché mettendo insieme i suoni, i movimenti del corpo, eccetera, fanno un sacco di, diciamo, possibilità, perché l'uomo non poteva fare lo stesso? È difficile pensare, cioè se il linguaggio fosse davvero nato a puri scopi comunicativi, sarebbe una macchina terribilmente sovradimensionata. In realtà consente di fare molte più cose che non comunicare, no? E infatti, allora, su questo si apre tutto un discorso su cui vorrei magari tornare le volte prossime, perché è un po' complicato da applicare, non proprio, ma... E cioè, ma il linguaggio, che rapporti ha con la biologia? Si vuol dire che è un sistema biologico, che è un dispositivo biologico degli esseri umani, o è qualcosa che indica già qualche altra cosa? E allora, io cercherò di argomentare la tesi che non ci sia una vera opposizione fra la natura e la cultura. Perché in realtà la cultura non è altro che la nostra biologia, e quindi il linguaggio ovviamente ha non soltanto un'origine biologica, ma probabilmente ha anche una funzione biologica, cioè all'interno del quadro generale della teoria dell'evoluzione, il linguaggio è quello strumento biologico che ha consentito agli esseri che ce l'avevano, quindi sicuramente Homo sapiens, chissà se ce l'avevano anche altri, anche altre specie oggi estinte, non so che cosa possa, se si possa dire così, no, comunque sicuramente per Homo sapiens, quindi è una strategia, cioè, detto in altri termini, il linguaggio non si sarebbe sviluppato e non sarebbe rimasto se non avesse assicurato all'uomo dei vantaggi evolutivi, se no non si capisce perché, cioè, le cose che la selezione naturale, che cosa diavolo seleziona? Seleziona specie, comportamenti, organi biologici che hanno una funzione nell'evoluzione, cioè che assicurano a quella specie una cosa. Ci vediamo, ciao. Che assicurano a quella specie una possibilità di sopravvivenza maggiore di altre. Quindi che il linguaggio ha sicuramente quindi non solo un'origine biologica, che è ovvio, ma anche da un punto di vista del proprio sviluppo, cioè si è sviluppato in relazione a, quindi assicura agli esseri umani una ha assicurato agli esseri umani un vantaggio. Allora, questo vantaggio però sbaglieremmo se pensassimo che è, diciamo, ridotto alla pura comunicazione. Non è soltanto nella comunicazione, è la funzione più generalmente rappresentativa del linguaggio che ha fornito, che ha dato all'uomo questa chance in più, insomma, quindi che lo ha fatto stabilizzare più o meno. Adesso sono l'uomo, esiste, l'uomo è una delle specie più giovani di animali, perché da 200.000 anni non sono nulla per una specie umana, per una specie animale, cioè le specie animali vanno avanti per decine, centinaia di milioni di anni, non ha senso. Se l'uomo, tutta caso, e ci sono delle ipotesi di linguisti e di biologi che sostengono questo, fosse in realtà vicino all'estinzione per una serie di motivi che non sono tanto quelli catastrofisti dell'ecologismo contemporaneo, ma proprio per esempio per il fatto di avere il linguaggio, cioè che il linguaggio sia in realtà una macchina che ha una serie di vantaggi biologici diretti, ma in realtà brucia una serie di risorse anche di tipo simbolico che altri animali non hanno, e quindi questo spiegherebbe perché noi siamo, per esempio, siamo l'unica specie di genere, eccetera, eccetera. Allora, se fosse così, se noi ce ne andassimo via anche soltanto tra 10.000 o 20.000 anni, saremmo stati una delle specie più effimere di questo pianeta. Cioè, tutte le altre specie hanno storie molto, molto, molto più lunghe. Comunque è la doppia articolazione che ci ha consentito, la ricchezza di questo linguaggio. Senza la doppia articolazione non ci può essere una funzione rappresentativa. I sistemi di comunicazione, i sistemi fonetici, i suoni che usano gli altri animali per comunicare o anche per esprimere sentimenti, no? Rabbia, frustrazione, gioia, tutti gli animali hanno sentimenti, insomma, tutti gli animali, almeno i mammiferi, insomma. Forse anche i pesci, gli uccelli sicuramente, insomma. Forse i lombrichi, insomma, i vermi hanno meno, però anche loro non è che diciamo, tutti gli altri, insomma, quando l'animale è un minimo, quindi c'è anche questo, però non c'è una funzione rappresentativa in questi sistemi comunicativi ed espressivi di altri animali, ce l'ha solo l'uomo una funzione rappresentativa, cioè una capacità rappresentativa, cioè la capacità di fare quello che abbiamo detto prima, cioè di correlare queste produzioni di suoni verbali lunghe, queste lunghe catene, queste lunghe sequenze, diciamo, di suoni, di correlarle a situazioni già vissute, situazioni possibili, situazioni, cioè, diciamo, da questo punto di vista il linguaggio è unico. È fondato biologicamente, certo, perché è fondato nella nostra biologia da tutti i punti di vista, sia come origine degli organi di produzione del suono, sia come funzione nel nostro rapporto con l'ambiente, quindi nella nostra vita nell'ambiente, che è poi quello che conta per ogni specie di animali. Però è unico, nel senso che non conosciamo altri animali che abbiano un simile strumento capace di rappresentare in questo senso, o se vogliamo di simbolizzare. Adesso il simbolo prima di tutto lo lasciamo un po' da parte. Spero che possiamo considerare acquisito più o meno il risultato che il linguaggio è un sistema discreto caratterizzato dalla doppia articolazione. Tutta la semiotica, come è stata costruita dagli inizi del secolo, è una disciplina, insomma, relativamente recente, deriva da una serie di sviluppi, è nata dalla linguistica. C'è stato questo linguista ginevrino che si chiama Fernand Saussure, sembrava un normale linguista che faceva studi di linguistica storica come tutti gli altri, poi invece si scopre dopo la sua morte che aveva insegnato esattamente queste nozioni, aveva messo la nozione di segno, aveva detto che i segni sono delle cose caratterizzate dalla presenza di un significante e di un significato, due cose che qualcosina, insomma, dovesse aver già dovuto aver fatto e sapere. Si chiamava Ferdinand. Era uno svizzero di lingua francese. Ferdinand e Sozio. Va bene, e allora, la semiotica nasce come una generalizzazione degli studi linguistici, chiamiamoli strutturalisti più o meno, di questo signore Ferdinand de Saussure e in realtà di un altro signore che qualche anno prima di lui, addirittura in America, aveva introdotto delle idee del genere, si era basato anche lui sull'idea di segno e questo signore, la semiotica ha due padri, uno è Ferdinand de Saussure, l'altro è Charles Peirce. Che è vissuto, forse è morto qualche anno prima di Saussure. Vabbè, per una serie di motivi storici la semiologia europea, lo studio dei segni in Europa ha seguito prevalentemente perché sono un pochino diverse le impostazioni che danno Peirce e Saussure, ha seguito prevalentemente Saussure, mentre in America la semiotica, infatti anche il nome è un po' diverso, ha seguito più che altro le idee di Peirce. Insomma, noi in genere ci riferiamo prevalentemente a Saussure perché nella tradizione europea è quello più. Però diciamo, tanto Peirce quanto Saussure, in questo non c'è differenza tra loro, hanno costruito due, come dire, sistemi più o meno entrambi basati sul linguaggio. Allora, Peirce un po' meno, certo, Saussure un po' di più perché è un linguista, ma anche Peirce poi ha finito per essere. Quindi la semiotica, cioè se la semiotica è una generalizzazione della linguistica, e sarà particolarmente adatta per studiare e per simbolizzare dei sistemi discreti. Il linguaggio è un sistema discreto. Certo, deve essere propriamente articolato, se no non c'è nessuna semiotica, perché non c'è questa grande ricchezza, questa possibilità di articolare così tanto significante sul, diciamo, significato. Adesso pensiamo, cerchiamo di fare un parallelo, vediamo se i sistemi di produzione dell'immagine possono essere considerati discreti o continui. Pensiamo alle immagini artificiali. Pensiamo a una delle tecniche più tradizionali. Non pensiamo ancora al computer, perché il computer potrebbe darci qualche punto di vista diverso. Poi ovviamente parleremo anche di quelle immagini. Però diciamo, pensiamo alle immagini tradizionali. Prendiamo una persona che disegna o che dipinge. Qual è la causa ultima? Fisica, materiale di un disegno o di un dipinto. Ma che cosa è prodotto? Un disegno o un dipinto? Cioè la persona che trasferisce una sua idea. Sì, ma lasciamo fare le idee, non sappiamo un caso delle idee. Da un punto di vista materiale, cosa fa la persona? Ok, traccia dei segni. E questi segni, no, ma che il suo corpo cosa fa? La sua mano? Fa dei movimenti, perfetto. Quindi, la causa fisica immediata di un'immagine artificiale tradizionali prima della fotografia sono dei movimenti del corpo umano, no? Allora probabilmente è nei movimenti del corpo umano che dobbiamo pensare. I movimenti del corpo umano rappresentano un sistema continuo o un sistema discreto? Mettiamo il movimento della mano, i movimenti della mano o delle braccia. C'è un movimento singolo se è discreto o continuo? Sì. Pensaci, non è? Cioè, nel senso, se uno fa così a me sembra continuo. Certo. E se fa così? Fare tutta l'opera, ok, dico discreto perché sono più sì, sono no, più sì. Movimenti e più, ma ogni movimento è. Allora, i movimenti del corpo umano hanno ovviamente dei vincoli che sono dati dalla particolare anatomia del corpo umano. Non siamo età beta, quindi non possiamo muovere le braccia come ci pare perché abbiamo delle articolazioni, delle ossa, per esempio, che bloccano il proprio movimento. Ma nell'ambito dei movimenti consentiti dall'anatomia del corpo umano, i movimenti del corpo sono tutti continui. Le braccia, le gambe, la testa, il corpo. hanno dei limiti, sono limitati dalla particolare, come quella di tutti gli animali. Diciamo, non esiste la discretezza, non esiste il carattere discreto nei movimenti di nessun animale. Anche il lombrico si muove in modo continuo, non è che va a scatti, non è che va a come dire, a pezzi. Come effetto di questo vuol dire che le immagini tradizionali fatte con strumenti tradizionali, quindi disegni e pitture, nel caso della scultura potremmo dire che la cosa è lievemente diversa dalla scultura tradizionale, perché lì ci sono delle botte, dei colpi, eccetera, però anche lì se ci pensassimo bene, come diciamo, nella pittura, che è quello che usiamo, diciamo, la pittura è fatta, i segni della pittura, se possiamo dire che sono segni continui, perché sono il prodotto di attività umane che sono di carattere continuo, che sono i movimenti del corpo, di certe parti del corpo, diciamo tipicamente di una mano che è collegata con qualche strumento capace di lasciare delle tracce su qualche cosa. Esiste un modo, come dire, naturale, spontaneo di segmentare i tratti di un disegno o di una pittura, cioè di... Certo, ci sono le figure, si può in qualche maniera distinguere una figura da uno sfondo, ma supponiamo di prendere un ritratto della Madonna, e con questo bel mantello, tutto bello tappeggiato, con i suoi drappelli, delle pietre tecniche, che sono delle tecniche particolari, che come sai bene, nel passaggio tra il Medioevo e l'età moderna si sono molto perfezionate, hanno dato origine a queste bellissime cose, ma si guardavano i drappelli dei vestiti della Madonna, dei santi, di qualunque altro. Bene, un vestito, il drappeggio di un comune vestito, è facile discernere degli elementi discreti, cioè discretizzarlo, un oggetto pittorico di quel tipo, è facile dire è fatto di tanti piccoli pezzettini, come è fatta di tanti piccoli pezzettini, di tanti piccoli suoni la parola, o no? Nell'esempio del drappeggio, che pensano motivi ripetuti? Vabbè, c'è anche motivi ripetuti, ma pensa al drappeggio, come è fatto? Arriva dalle spalle della Madonna, poi va ampio, si stende per terra, eccetera, eccetera. Come fai a isolare? Sì, puoi dirlo tu, considera il tratto che va dalla spalla al gomito, ok? Ma probabilmente il pittore come ha fatto? L'ha fatto con tanti piccoli, cioè, il risultato che tu hai, insomma, il manto della Madonna è un oggetto, diciamo, continuo o è un oggetto discreto? È continuo. È continuo, certo che è continuo. Certo che è continuo. Cioè, ogni distinzione che tu gli fai, la fai a tuo uso e consumo, vuol dire adesso considero l'interno, poi considero l'esterno, adesso considero quella parte che va da lì a lì, ma sei tu essere umano che guardi il quadro, che introduci eventualmente. Allora, mentre se tu vuoi analizzare i suoni della parola casa, non è che io li analizzo in un modo e tu li analizzi nell'altro. Sono K, A, S, A, cioè non ci sono cristi, non c'è modo, cioè siamo per forza tutti d'accordo. Mentre se io voglio sezionare, che ne so, il manto della Madonna del Cardellino di Raffaello, io posso farlo in un modo, tu lo puoi fare in un altro, cioè c'è dell'arbitrarietà nella segmentazione. Questa è la caratteristica degli oggetti continui. Quindi, mentre il linguaggio è un sistema discreto e a doppia articolazione, la pittura, presa come esempio emblematico di uno dei sistemi di immagini artificiali che è stato più diffuso nella storia fino a tempi recenti, è chiaramente un sistema continuo. Allora, domanda, come si fa a fare la semiotica di un sistema continuo? È dura, Semiotizzare un sistema continuo, cioè andare a fare una analisi, per poter fare una semiotica bisogna essere in grado di isolare i tratti costitutivi di quel certo prodotto, per esempio una parola scritta, una parola parlata, e poi vedere come si combinano, sappiamo la sintassi, la semantica. È arbitrario. Se è arbitrario, come fa? Sì, posso farlo, ma non ha lo stesso fondamento che ha in un sistema discreto. Mentre la semiotica di un sistema discreto ha in qualche maniera un fondamento all'interno dello stesso sistema di segni e di traccia, nel caso della pittura o della produzione di segni artificiali, la semiotica non ha un fondamento in quel sistema lì. Si può fare, ma è, come dire, condurrà non soltanto a risultati, diciamo, diversi, ma a spesso risultati anche molto diversi, perché, come dire, il sistema di segni discreti che io devo individuare all'interno di una pittura o di un disegno per poterne fare un'analisi semiotica è vago, cioè dipende da una scelta metodologica, storica, eccetera, totalmente arbitraria. Quindi non è possibile, si può fare di tutto, insomma, ma diciamo l'idea di costruire una semiotica delle arti visive, di qualunque prodotto visivo, analoga a quella del linguaggio, a me pare un progetto molto debole e addirittura di dubbia utilità. Perché che utilità può avere se la segmentazione, diciamo, allora c'è un modo di dire che usano i linguisti e poi insomma semiotici, cioè l'analisi linguistica o l'analisi semiotica è un'analisi, dicono loro, in tratti pertinenti, cioè c'è una specie di pertinenza. Se io analizzo una frase ha una certa struttura logica, per esempio soggetto, predicato, il predicato può essere un verbo, eccetera, eccetera, di volta in volta io ad ogni livello dell'analisi introduco una certa pertinenza. Ora, pertinenza vuol dire che ad ogni livello so sempre più o meno che cosa devo andare ad analizzare per poter fare quella analisi di un certo tipo. Pertinenza. Allora, mentre in un sistema linguistico la funzione della pertinenza è collegata con la struttura di quel sistema, col fatto che c'è questo sistema discreto, c'è questa doppia articolazione, cioè mano a mano che vado avanti di livello costruisco sistemi di segni sempre più complessi, in cui però io ho delle leggi, per esempio, che mi dicono che nella lingua italiana, davanti ai sostantivi di genere femminile, devo mettere un articolo femminile, devo mettere la o una, non posso mettere lo, il o un, o uno. Allora, in questo modo ho dei criteri di pertinenza abbastanza sicuri e non ci sono crisi, poi si possono discutere su tante sfumature, ma sul fatto che la grammatica italiana sia fatta così non si può discutere, non è che è un fatto di dire adesso io mi invento come, cioè se no mi invento un'altra lingua per l'italiano, se voglio fare una semiotica dell'italiano devo tenere dei vincoli dell'italiano. I sistemi, le immagini da un certo punto di vista sono meno vincolate, hanno molti meno vincoli con il linguaggio, certo, perché consentono una quantità di, al di là del gusto, delle robe, eccetera, io l'insieme di colori che posso mettere su un quadro è limitato soltanto dalla disponibilità tecnica di quel certo momento di produrre colori, e sai bene quante volte nella storia dell'arte questa cosa sia stata, per esempio l'arrivo della Pizzazzoli, che per tutto il Medioevo non c'era, al fine del Medioevo arrivano queste pietre dalla cosa tutte belle azzurre, i pittori le pestano e così Piero della Francesca può fare questi meravigliosi mattelli che non si erano mai visti prima. Era tutta una questione di... quindi c'erano dei vincoli certo tecnici, ma non dei vincoli intrinseci al sistema delle immagini, sia dal punto di vista dei colori, sia dal punto di vista delle forme, dei tratti, eccetera. I sistemi delle immagini sono pochissimo vincolati, ma essendo pochissimo vincolati vuol dire che è difficile per loro stabilire una pertinenza, un sistema di pertinenze, cioè quali sono i tratti pertinenti e quali non sono pertinenti. sono tutti pertinenti nelle immagini in linea di principio. C'è un gioco della te, no? Non essendo limitati, mentre le regole sono tutti limitati, sono delle regole, perché se no io potrei parlare e dire non sarebbe la lingua se non ci fossero limiti, non ci potevo capire io se non ci fossero delle regole che dicono che quando uso del singolare i verbi vanno a singolare, se usano plurale vanno a plurale. Nelle immagini non è così. La minore presenza di vincoli del sistema delle immagini vuol dire che che la funzione della pertinenza non è così importante nei sistemi di immagine come in quelli linguistici. Ma se la pertinenza non è importante, che semiotica faccio io? Che analisi dei segni faccio? Faccio un'analisi storica, stilistica, estetica, posso fare di vari tipi, ma una qualche cosa di, virgolette, così chiamiamolo scientifico, insomma, molto preciso, come aspirerebbe ad essere l'analisi semiotica, nel caso di un sistema delle immagini non posso farlo. Allora, questo fatto che, io questa credo che sia una delle caratteristiche principali, delle differenze principali che ci sono tra le immagini, adesso dico questo da un punto di vista, diciamo, strutturale, della struttura di questi due, diciamo, sistemi. Questa differenza di origine e di, diciamo, il linguaggio fa parte dei sistemi discreti, è un sistema discreto o facilmente discretizzabile. Le immagini artificiali sono degli oggetti continui e quindi difficilmente discretizzabili, arbitrariamente discretizzabili, ma la discretizzazione è una delle caratteristiche, dei presupposti per fare un'analisi semiotica. Se non discretizzo le cose non posso fare la semiotica, diciamo, di nulla. Allora, questo significa che questo poi ha delle altre conseguenze che, insomma, vedremo nelle volte prossime. Allora, le volte prossime vorrei parlare vorrei continuare questa idea per vedere se ci sono altre conseguenze di questa differenza tra continuo e discreto nelle immagini rispetto al linguaggio. Poi vedere. Poi avremo, insomma, il punto fondamentale di questa serie di lezioni e sarà quello di cercare di capire quali sono stati storicamente i rapporti tra le parole e le immagini e se è vero o non è vero, in che senso è vero che l'apparizione della fotografia e le conseguenze, soprattutto la svolta tecnica, abbiamo visto più importante quella della possibilità di stampare le foto su carta comune, quindi l'ingresso delle immagini nei giornali, che prima non c'erano, le immagini, le foto, insomma, ci potrebbero essere soltanto i disegni. Se questa cosa abbia portato o no ad un rovesciamento dei rapporti tra parola e immagine che si erano storicamente, questo è un tipo di indagine storica. Però prima di fare questo vorrei fare almeno un'altra lezione o una mezza lezione sulla, che è quella che farò lunedì prossimo, sulla questione del linguaggio come strumento biologico, quindi dell'origine biologica del linguaggio, che ovviamente implicherà un discorso sull'uomo in qualche modo, insomma, perché dovremmo cercare di capire se il linguaggio è così importante, così fondamentale per l'essere umano. Questo vuol dire che insomma, diciamo, messa in altri termini, bisognerà indagare un po' sui rapporti fra natura e cultura e in che senso il linguaggio possa essere considerato, possa fare parte, diciamo, della sfera naturale o della sfera culturale dell'uomo, o addirittura, in interrogativo più radicale, se abbia senso fare una distinzione così netta fra natura e cultura per gli esseri umani. E questo dal punto di vista del linguaggio. però ti basta, direi, ecco, visto che eri pure.